gli abiti del male. E al pari delle virtù, questi vizi derivano dalla ripetizione di azioni che formano nel soggetto che le compie una sorta di abito che lo inclina in una certa direzione. Però dobbiamo dire che diciamo, i vizi, anche se sono così antichi, nascono nel Medioevo, ossia nasce nel Medioevo l'idea dei sette vizi capitali, che sono appunto, come sappiamo, superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia. Che succede nel Medioevo? Che questa, diciamo, idea dei sette vizi capitali sembra coincidere con la frattura della riforma protestante che segna l'avvio dell'età moderna. Infatti la storia dei sette vizi capitali dura circa 1000 anni, che sono i 1000 anni del Medioevo. E diciamo che questo schema diventa sempre più importante e finisce con il collocarsi al centro della vita morale degli uomini e delle donne. Inizialmente vennero pensati dai monaci per Non altri so, no. monaci. E infatti. Non si è sentito niente? Non si è sentito niente probabilmente. Allora ricominciamo. Come non parlare dei sette vizi capitali che sono superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia. Il primo che ce ne parla è Aristotele, che li definisce gli abiti del male e al pari delle virtù i vizi derivano dalla ripetizione di azioni che formano nel soggetto che le compie una sorta di abito che lo inclina in una certa direzione. Nel Medioevo i vizi sono visti come un'opposizione della volontà umana alla volontà divina ed è proprio nel Medioevo che si afferma l'idea dei sette vizi capitali. E questa, diciamo, declinazione dei sette vizi capitali coincide con la frattura della riforma protestante che segna l'avvio dell'età moderna. Questa, diciamo, idea dei sette vizi capitali, diciamo che diventa uno schema che si colloca in maniera sempre più incisiva nella vita morale degli uomini e delle donne. Inizialmente furono pensati da monaci per altri monaci e questi sette vizi che si affermano appunto all'interno dei monasteri dapprima rappresentano gli ostacoli da superare lungo il cammino di perfezione a cui i monaci si sono votati. Però è fuori dal monastero che questo settenario celebra il suo trionfo. Adesso però ascoltiamo la canzone dei Simple Minds, che è un gruppo musicale scozzese e che si chiama appunto dedicata ai sette vizi e si chiama Seven Deadly Sins nell'album Good News from the Next World. Your castle. E giustizia di Dio, tante chi stipa, nove travagli e pene quanti ovidi, e perché nostra colpa si ne scipa? Si ne scipa? Come fa l'onda sopra Cariddi, che si frange con quella in cui si intoppa, così convien che qui la gente riddi. Qui vidi gente più che altrove troppa, e più d'una parte ed altra, con grand'urli, voltando pesi per forza di poppa. Percotensi incontro e poscia pur lì si rivolge ciascun, voltando al retro, gridando perché tieni e perché burli. Così tornavan per lo cerchio tetro, da ogni mano all'opposito punto, gridandosi anche loro ontoso metro. Shake your body like the dance. Poi si volgeva ciascun quando era giunto, per lo suo mezzo cerchio e l'altra giostra. E io, che avea lor cor quasi compunto, dissi: maestro mio, or mi dimostra che gente è questa, e se tutti fuorcherci questi kercuti alla sinistra nostra. Ed egli a me, tanti quanti fuorquerci, sì della mente in la vita primaia, che con misura non lo spendio ferci. Assai la voce lor chiaro la baia, quando vengono a due punti del cerchio dove colpa contraia li dispaia. Questi fuorcherci che non han coperchio, piloso al capo e papi e cardinali, in cui usa avarizia il suo soperchio. E io, maestro, tra questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni che furono mondi di cotestimali. Ed egli a me vanno pensare ad uni la sconoscente vita che fe i sozzi. Ad ogni conoscenza ora li fa bruni. In eterno verranno alle due cozzi, questi resurgeranno del sepolcro col pugno chiuso. Mal dare al maltenere al mondo pulcro ha tolto loro, e posti a questa zuffa, qual ella sia, parole non c'ha pulcro. Or puoi, figliuol, veder la corte buffa di becca insoccommessi alla fortuna, perché l'umana gente si rabbuffa, che tutto loro che ha sotto la luna e che già. E che già fu di quest'anime stanche, non potrebbe farne posare una. Era il canto settimo dell'Inferno di Dante, in cui nel quarto e nel quinto cerchio incontrava avari, prodighi, iracondi e accidiosi. Di sottofondo c'erano Miss Kittin and the Hacker. Me. Stiamo parlando di avarizia e quindi Dante, ma facciamo un salto, ritorniamo nei primi anni 70 con i Pink Floyd. Ovviamente stiamo parlando di Money, una canzone scritta da Roger Waters nel 1973, che faceva parte dell'album The Dark Side of the Moon, e che appunto parla dell'alienazione legata al denaro e una critica feroce e ironica verso le persone attaccate in modo eccessivo ai soldi. Roger Waters su questa canzone ha detto che è una canzone banale, composta da parole banali, ma è una delle canzoni più famose dei Pink Floyd, e ve la facciamo ascoltare, appunto, Money dei Pink Floyd. Quantomeno mangi, bevi, compri libri, vai a teatro, al ballo e all'osteria. Quantomeno pensi, ami, fai teorie, canti, dipingi, verseggi, eccetera. Tanto più risparmi, tanto più grande diventa il tuo tesoro, che né i tarli né la polvere possono consumare. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844. utilizza uno stile sussurrato tipico del suo album Erotica, pubblicato nel 1992. E, come avrete capito, stiamo parlando di lussuria e non più di avarizia. Sembra che sia uguale agli dèi, quell'uomo che di fronte a te siede e standoti vicino ascolta te che parli dolcemente e amabilmente ridi, e questo davvero mi fa balzare il cuore nel petto. Come infatti io ti vedo, subito non mi è più possibile dire nulla, ma la lingua si spezza, sottile, un fuoco subito mi scorre sotto la pelle. Non vedo nulla con gli occhi, ronzano le orecchie. Un freddo sudore mi avvolge, un tremito mi prende tutta. E più verde dell'erba io sono, e poco lontana dall'essere morta sembro a me stessa. Questa era Saffo, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fra il VII e il VI secolo avanti Cristo, e, per sottolineare anche come tutti questi vizi capitali, questi peccati fino adesso elencati, per noi possono essere anche considerati dei piaceri e delle virtù. To justify, ed ora ci sentiamo James Brown, Sex Machine. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. You got to get. You give me a fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I've got mine, don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. The way I like it is the way it is. I've got mine, dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time. Yeah. Go ahead. You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up, get up, get on up. Taste, get on up. A piano, get on up. Taste, get on up. A piano, get on up. Enjoy yourself degli Special. L'unica cosa che possiamo dirvi, cioè, divertitevi, chi se ne frega se è un vizio. Più vizi abbiamo, meglio è. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Somebody my brother never done. Enjoy yourself, it's nicer than you think. adesso invece ci sentiamo la canzone interpretata da Johnny Cash, Cocaine Blues. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. Took me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dead carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. A tenny coughed as he cleared his throat. He said, let alone you dirty hack into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was held by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen. E mentre Mamma Truna mi sfuma, vi leggo un brano scritto fra il 1919 e il 1922, tratto dalla Coscienza di Zeno. Ricordate, parlava delle ultime sigarette, alle ultime sigarette legava delle date importanti. Adesso sono qui ad analizzarmi, sono tolto da un dubbio, che forse io abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Me la fumo pure io una sigaretta. Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualcosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito e da proposito a sigaretta. Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma non meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po' più lontano. Quindi le sigarette. Ora, proprio rispetto alle sigarette, sentiamo Cigarette Smoke degli Arctic Monkeys. Just your sharp tips, no, I won't reach your lips right now. And baby, hey, you send a shiver down my spine, but do you read my mind, do you? And you're looking pretty suspicious, probably planning a heist. He's wanting to go to the strippers, it makes him feel all nice. Cigarette smoke, yeah. A cigarette smoke in your eyes. 15 aprile 1980, ore 4:30. Muore mio padre. US. Per chi non lo sapesse, quelle due ultime lettere non significano United States, ma ultima sigaretta. Flashing and digital cameras from Taurus and Trafalgar Square. A cigarette smoke in your eyes. Watching a stripper snorting some coke. Snorting some coke on both sides. Che abbiamo d'estate, particolarmente ci piace bere il chinotto, e gli Skiantos addirittura hanno fatto un album dal nome Chinotto, e quindi adesso ci sentiamo la loro canzone Chinotto. Buono buono. Oggi è stata gran calura, nella mia gola c'era. Boicottiamo la Coca-Cola e beviamo il chinotto. Impazzire per una falda morire. Nella notte l'ho sognato, nella gola l'ho gustato. Ma comunque non siamo pagate dalla chinotto. La sai. Un chinotto ogni due ore. È un gran viaggio da signore. Infatti non è una mano. Ogni due ore fa passare il malumore. Il chinotto è la mia droga, io lo bevo senza posa. Quando sono un po' depresso mi riaggiusta con me stesso. Un chinotto ogni due ore, è un gran viaggio da signore. Un chinotto ogni due ore fa passare il malumore. Molto bello, sale dritto nel cervello, col suo gusto effervescente, fa leggera la tua mente. Il chinotto è come un mantra, ti distende e ti rinfranca. Se lo bevi senza sosta, la tua vita avrai risposta. Un chinotto ogni due ore, è un gran viaggio da signore. Ogni due ore fa passare il malumore. Comunque gli Skiantos sono uno dei primi gruppi demenziali italiani, nascono a Bologna nel 1975 con Inascoltabile. Come non parlare e nominare la bevanda migliore che ci sia, che è il caffè, ragazzi e ragazze. E quindi per questo ci ascoltiamo una Tazzulille Caffè di Pino Daniele del 1977. Vai Pino, facci sognare! Una Tazzulille Caffè, che sigaretta coppa per non pare. Stanno a chi ne sbaglio, fanno solo un brugno. Salisciano, si fattono, si pigliano un caffè. E noi passa a me le vai, noi non potremmo supportare. E chi sti invece la una mano. Salisciano, si fattono, si mangiano la città. E noi passa a me le vai, noi non potremmo supportare. città. Nada azule, le caffè, a concia bocca chi non può sapere. E noi tiriamo a nanzo che rullure e panza, e invece ci aiuta a buffare i caffè. Nada azule, le caffè, che sigaretta coppa per un bere. Sai se ne palazzo fanno cose pazze, ci girano, ci votano, ci vengono i tassi. E noi passiamo le maia, che non potremmo supportare. E chi sta invece la namale, sorrisono, sovattono, sovagno la città. Bronx, è successo un fatto terribile. Terribile, la scala di Amadeo, praticamente gli hanno sfonnato tutte le piante perché erano belle queste piante, un bijou. Praticamente questi qua non è la prima volta che succedono queste cose, ma mo se li becco, chiamo i bignieri. Ci loro. E ora che abbiamo scoperto il fattaccio, vediamo chi era Amadeo, cosa faceva Amadeo, quali sono i segreti di Amadeo. Ma guarda, Amadeo è un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, lavora pure di notte. E niente, c'ha sto cane che è tanto affezionato, grosso, sembra un orso, e perde sti peli, sto cane che perde sti peli per la scala. E lui poi, con sto cane, ci parla come se fosse un cristiano. A me mi sa che Amadeo porello, capito? Ora siamo a Bastoggio, non molto lontano dal Bronx, e chiediamo alla signora di sotto... Lei per caso ha saputo del fatto del vaso di Amadeo? Ha sentito qualcosa? Allora, io sono la signora di sotto, devo dire che mi trovo molto bene qui, però l'altra sera sentivo tutto un tintinnare, uno scoppettio, e non capivo cos'era. Poi ho pensato che era la signora di sopra, e allora poi mi sono fatta le analisi, ho fatto anche la TAC, però non ho capito che cos'era. Adesso che mi dice che è stata... il vaso di Amadeo, finalmente ho capito che cos'era. Però devo dire che qui mi trovo bene, vivo con la mia figliola. Signor, mi raccomando, se lei vede qualcuno di sospetto, che ce lo dica. Di questi qua ce lo deve venire a dire, al Bronx, a me, a Amadeo, a tutta la scala, che questi sono persone molto pericolose, capito? Te potrebbero sfondare i vasi pure a te. Sì, lo so, infatti faccio parlare anche mia figlia, che forse ha visto qualcosa. Ecco, entriamo proprio nel vivo, facciamo parlare pure la figlia della signora di sotto, che ci dice... Quanto so buona, perché so proprio buona, faccio lavori nelle scuole e volevo dire che assomiglio anche a Sabrina Ferilli. L'altra sera mentre mi cotonavo tutti i capelli e mi mettevo i biccottini, mi pare di aver sentito un qualcosa provenire dal Bronx. Ci può dire più precisamente che cosa, questo qualcosa che lei ha sentito? Ma veramente, cioè, sono scesa un attimo giù, ovviamente, con tutto il quartiere che mi diceva quanto so buona. Volevo vedere che cos'era. E poi, camminando nel buio dell'Iperfamily, mi pare di aver visto in lontananza delle persone che scappavano dal Bronx con dei vasi in mano, dei cocci in mano. E da lì poi ho sentito un urlo: mali mortacci vostra! Ma non ci ricorda un po' Claudio Villa questa voce, Michele? E poi insomma, com'è finita tutta questa storia, signora? Ci dica. E niente, ho visto queste ombre cinesi e mi sono messa un po' di paura. Allora sono ita de corsa, tutta de corsa, tutta de corsa a casa. Mi sono torta tutti i bigotini che m'ero messa innanzi e niente, ero buona come sempre. E però mi presi un grande spavento. Poi stamattina lessi il giornale e vedetti la storia tragica che colpì Bronx e il povero Amadeo. Ecco, proprio un brutto quarto d'ora, possiamo dire, un po' come il titolo del nostro bel programma. Abbiamo visto come intorno alla storia del vaso di Amadeo si intessano storie e personaggi fantastici e fantasiosi. Domani e per tutta la settimana parleremo di questo fatto che ha molti punti salienti con il nostro anche bel plastico in prestito da Bruno Vespa, dove vedremo come si collegano il Bronx e Bastoggi con l'Iperfamily e il Prato con le pecore e il pecoraio. Infatti intervisteremo sicuramente le pecore che hanno visto qualche cosa e non possono nasconderlo. Ciao a tutti, ciao! All of you kids are keen for a bean, unless it is the cheery coffee bean. I love coffee, I love tea, I love the jab, the jive, and it loves me. Coffee and tea and the jive and me. A cup, a cup, a cup. I love Java, sweet and hot. Whoop, Mr. Moto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup. So slip me a slot. Dopo un brutto quarto d'ora ci riprendiamo con caffè e tè. Java G, The King Sisters. A slice of onion on a raw one. Raw one. Waiter, waiter, percolator, I love coffee, I love tea. I love the jabba jive and it loves me. Coffee and tea and the jive and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh. Cioè nel senso il nostro vizio, un cannone ce lo meritiamo, portatecelo, no? Socio

E anche oggi con questa canzone Mamma Trona finisce, e vi ricordiamo però che oggi pomeriggio alle 14.30 ci sarà il presidio sotto l'assessorato alla casa per sostenere Casa Libera Tutte a via della Molletta dietro al mercato di Garbatella. Comunque sentirete dopo sul GR la corrispondenza. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Dia inizio allo spettacolo, è tutto per te, a me sai, mi troverai comunque in bilico e vai, per un po' di vita qua tocca fare a botte, perché la fortuna bacia ma la sfiga ti fotte, mobilito flotte per l'attacco, brucio nella notte come stelle nello spazio, stacco a morsi tutto